Siete tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Io ero molto contento dell'arrivo in Italia di allenatori stranieri, quello che pensavo ci fosse da imparare, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista della cultura sportiva, della mentalità. E io nella mia testa c'ho anche il desiderio di andare a lavorare all'estero per provare questa situazione. Ma poi vedo che quando arrivano qua cambiano velocemente e diventano peggio di noi e non credo che sia, non sia bello. Io voglio fare i complimenti a Stefano Pioli perché veramente è un allenatore bravissimo, non so se terminerà quarto o terzo, ma Lazio fa veramente una grande stagione, ha veramente dei giocatori bravi. Non c'era bisogno di dire che siamo dei piangioni, non c'era bisogno di parlare di una partita dove lui non c'era. Credo che non sia giusto, credo che non sia corretto, credo che non sia a livello professionale una bella cosa. Ma si fa riferimento alle mie dichiarazioni in conferenza stampa, fa parte del show, fa parte della destabilizzazione dell'avversario ovviamente, questo è solo comunicazione. Beh, il dopo derby è stato divertente quanto il derby stesso. Ci eravamo sbagliati tutti, avevamo adombrato l'ipotesi di un biscotto. Da questo punto di vista, e sentendo le conferenze stampa e le stilettate dopo la partita, io sono abbastanza d'accordo con Garcia. Perché fa parte del gioco. Ciao Pierluigi Pardo, sto continuando ad inseguirti tra un aereo e l'altro, ormai sei l'araba fenice. Sì, no, sto andando a Varsavia per la finale di Europa. Sì, lo so. Dnipro, la partita. La partita che tutti volevamo vedere, no? La finale europea, che sognavamo, esatto. No, a parte le battute, però insomma sarà comunque una finale e sarà quindi bellissimo raccontarla. E poi alla fine la mia piccola esperienza di finali europee è che comunque poi insomma quando sei lì e ti giochi tutti. Quante ne hai fatte? Beh, ne ho fatte 4-5, no, le finali in 4-5. Generale, no? Sì. Sia Coppa d'Inghilterra che Europa League, vabbè, la Champions è un'altra cosa, però insomma è comunque c'è adrenalina. No, tornando al derby, io con Scotto non mi ero sbagliato, pensavo onestamente che vincesse la Lazio perché mi sembrava che fosse più in condizione. Ieri invece devo dire la verità, al di là degli episodi, perché poi la partita poteva girare, il vero dato politico della partita è che sarà stata per la stanchezza di Lazio-Juve, ma insomma la Lazio ha perso energia e la Roma invece ha ricominciato a correre, quindi questo è il vero dato. Sì. La partita tatticamente è stata come ce la immaginavamo, e sulla polemica, cioè con la Lazio che attaccava e la Roma che ripartiva, e sulla polemica, vabbè, solito, è il solito dibattito. Fra no, ma guarda, io ti dico, Pier, io sto abbastanza dalla parte di Garcia, è giusto, sono giuste le schermaglie dialettiche, cioè non c'è niente, sì, non c'è niente per cui offendersi, no? Cioè, da questo punto di vista, Pioli non ha ragione, cioè Garcia ha fatto il suo lavoro, ha fatto i suoi mind games, come mi piace uno dire. Uno fa buono e l'altro fa cattivo, punto. Come ma sempre, sì, dai, questo no. Succede. Questo come è normale, niente di cui. L'attività che ho fatto, l'esempio di Mourinho, d'accordo. Mourinho ha vinto di più, però la logica, il principio da discutere è quello. Cioè, può un allenatore prima di una partita importante adombrare dei sospetti? Può un allenatore magari mettere a nudo, sì, delle debolezze, sì, dell'avversario? Può. Chiaramente insomma poi è ovvio che si presta a qualche critica, però fa parte del gioco, insomma. Devo dire che sarò molto onesto, Garzia, nel dire, cioè io trovo questo, che se lui ieri avesse fatto il vago non mi sarebbe piaciuto, invece lui ieri te l'ha detto, l'ha detto con candore, sì. Ho fatto questa cosa perché questa cosa qui fa parte del lavoro di un allenatore, che non è soltanto quello di allenare la squadra in campo. Sono ma d'accordo, ma a noi piace, no? A noi ci piace. Sì, ma insomma, a me non è che quelle dichiarazioni lì mi abbiano fatto impazzire, quelle di Garcia. No, però ha fatto il suo lavoro. Ha fatto il suo lavoro, e forse Pioli è caduto nella trappola, no? Forse la Lazio è caduta nella trappola. Ma sì, o forse semplicemente Young and B1 ha trovato una grande deviazione di testa, e quindi dopo la partita, però sicuramente il dato politico, diciamo, della partita di ieri rispetto a come anch'io me la immaginavo, è che la Lazio stava meno bene di quello che pensassi, era molto stanca, e la Roma ha fatto, la Roma è tornata a correre, la Roma è tornata ad avere una logica, e quindi poi, insomma, secondo me la partita si stava comunque in la Roma non ha mai rischiato di perderla a parte i primi 10 minuti. Sì. Sappiamo bene che ieri per la Roma un pareggio equivaleva quasi una vittoria, no? Certamente, cioè, certamente, certamente. Quindi, la partita, diciamo, ma c'eravamo sbagliati tutti, no? Nell'adombrare l'ipotesi del biscotto. Poi sentiamo Cruciani, sentiremo Manfredonia, sentiremo tutti i laziali, sentiremo un sacco di persone, sentiremo gli ascoltatori all'800 24 0024. Ci eravamo sbagliati tutti. Io dico, al biscotto onestamente non ci credevo, perché un po' così. Io un po' sì. No, però Carlo, secondo me, scusa, non voglio fare così, diciamo, il non voglio tirarmela, ma Roma, i derby in generale, e Roma ha delle dinamiche, delle logiche di un certo tipo. Questo non era un derby di paura, questo era un derby scudetto, diciamo, nella testa dei tifosi e delle squadre. Questo era un derby che valeva quasi i mitici derby di una decina di anni fa. Hai ragione Pierluigi. Il secondo e il terzo posto fanno tutta la differenza del mondo, al di là del fatto che adesso la Lazio... Secondo te la Lazio va a Napoli a fare il risultato oppure no? Secondo me no. Per me tecnicamente la Lazio è due risultati su tre favorita. Emotivamente, sto parlando secondo emotivamente. Secondo me il segno 1 è inferiore al 50% di possibilità. Quindi secondo me tecnicamente parlando l'X2 è più probabile dell'1, però è chiaro che la Lazio si presenta a questa partita con una sindrome che potrebbe essere quella del Bayern Leverkusen o del Benfica di 2 anni fa, che buttò via tutte quella settimana. Cioè, quando hai fatto così bene, sei stato in corsa per così tanto, ti strameriteresti indiscutibilmente. Però dopo questa doppia botta Coppa Italia e derby, secondo me la Lazio va lì e rischia di buttare via una stagione meravigliosa. Questo è il mio pensiero. Senti Pier, ci sentiamo dopo, quando sarà arrivato. Decollo, ti chiamo da Varsavia. Chiamami da Varsavia, che poi voglio parlare con te anche di Carletto esonerato, Ancelotti che va via, voglio parlare di Toni, avremo un ospite importante su Toni, che oggi compie 38 anni, lui non vuole parlare, ma parlerà un suo compagno di squadra, insomma, abbiamo tante cose. Ci sentiamo dopo, Pierluigi, buon viaggio. Ok, a dopo. Ciao. Pierluigi Pardo è un furbacchione che ho frequentato nelle notti madrilene, quindi bocca al lupo Pierluigi Pardo. Tutti convocati. Regione Emilia-Romagna ti aspetta a Research to Business, 4-5 giugno, Bologna Fiere. Vi presenta... Convocati. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Festeggiare, divertirci, sfottere i nostri avversari, ma rendersi conto che facciamo un po' cagare a volte, quindi ripartiamo bene con le idee ben chiare, se no sarà dura sott'anno, perché questi vanno forti. Poi volevo che rispondesse anche alle critiche di De Rossi, se mi passa il termine, le ha dette lui, ha detto sì, adesso festeggiamo, però molto spesso abbiamo fatto cacare. Scusate. Non ho capito la parola e non voglio capirla, ma Daniele come gli altri sono veramente contenti, hanno dimostrato orgoglio, carattere e dignità e hanno portato questa sera in alto i colori della nostra Roma e adesso festeggeranno come si deve fare in questo momento. Lionello Manfredonio, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Lio. Ciao. Senti, tante polemiche dopo un derby. Ieri abbiamo speso un sacco di tempo nel dire che alla fine il biscotto poteva essere il risultato che poteva far comodo ad entrambe. Adesso la Lazio si è ficcata in un buco nero. Bello così, bello così, però un pareggio naturalmente avrebbe qualificato entrambe le romane alla Champions League. Sì, sicuramente, però il derby va sempre giocato al 100%, quindi hanno fatto benissimo le due squadre per rispettare anche le due tifoserie rivali, e quindi è giusto giocarsela. Sembrava che finisse in parità, poi la Roma è riuscita a far gol con Yang Abingua e ha vinto il derby. E adesso chiaramente la Lazio ha una partita molto complicata a Napoli, perché la Lazio viene da alcune sconfitte pesanti, come la sconfitta in Coppa Italia con la Juventus, il derby, quindi essere bravo Stefano Pioli a recuperare un po' dal punto di vista psicologico la squadra. Sì, però senti Dio, sarebbe un falso storico, direi quasi, se la Lazio non dovesse arrivare terza in questo campionato. È stata una squadra meravigliosa per tutto il giorno di ritorno. Ha sbagliato certamente la partita di ieri, ha subito il contraccolpo della finale di Coppa Italia, però tutto sommato la Lazio meriterebbe di arrivare in Champions. Il lavoro di Pioli, di Stefano, è stato eccezionale, perché ha tirato fuori da giocatori normali, diciamo tra virgolette, il meglio che potevano dare, e la Lazio è arrivata fino alla fine. E ripeto, la partita è un po' complicata, quella di Napoli, però insomma io mi auguro insomma che ce la possano fare. Sì, il discorso è che non me ne vogliono i tifosi napoletani, chiaramente. certamente la Lazio ha rimesso in gioco il Napoli. Certamente è vero che ieri c'è stata molta schermaglia dialettica. Tu come la vedi con questo scambio di accuse tra Pioli e Garcia? Garcia ha fatto molto il Mourinho alla vigilia di questo derby. Sì, sicuramente sì, ma nei derby, insomma, gli allenatori, Mourinho insegna, è giusto che aiutano, tra virgolette, un po' la squadra avversaria. Forse Stefano è caduto nella trappola di Garcia, però io credo che poi anche Stefano abbia capito che è lo show, come dice Garcia, è un derby, è un grande spettacolo, e quindi ci può anche stare, insomma, questi spot iniziali anche dopo il match. Ci possono stare. Io mi aspettavo che era, insomma, una Lazio che stava meglio della Roma, una Lazio che aveva tutto sommato l'interesse anche a pareggiare questa partita. Vedevo una Roma in difficoltà alla vigilia di questo derby e mi ha sorpreso molto il fatto che l'abbia vinto. Ma la Roma però ha, secondo me, dei giocatori che la Lazio non ha, tipo Pjanic e Nainggolan, che sono due campionissimi. Sì. Che secondo me hanno orientato la partita nel verso giallorosso. Pjanic ha fatto due o tre giocate fantastiche, colpo di tacco che ha lanciato Nainggolan verso la porta e poi il gol di Turpe. C'ha dei giocatori che possono risolvere la partita da un momento all'altro. La Roma ha avuto sempre queste individualità notevoli, e ieri hanno vinto loro, secondo me, con delle giocate singole più che la squadra in generale. Senti, come vedi la finale di Champions League? Il Barcellona è fortissimo, ha quei tre attaccanti fenomenali. La Juve però se la può giocare, chiaramente parte sfavorita, e ha fatto benissimo in Champions, è andata a vincere anche a Dortmund, un campo difficilissimo. Ha giocato così col Monaco, però io credo che la Juve se la possa giocare, anche se mi sembra che il Barcellona sia molto molto forte. Un'altra cosa, come vedi il licenziamento di Ancelotti che era diventato ufficiale? Lì è il discorso di Madrid, è che purtroppo ormai devono cambiare i protagonisti che sono gli allenatori. Madrid non ha vinto nulla quest'anno, diciamo fra virgolette, e di solito quando il Real Madrid non vince l'allenatore viene cambiato, anche se è un allenatore grandissimo come Carlo Ancelotti, però qui in questi grandi club può succedere anche questo, anche lo stesso Barcellona che magari Luis Enrique vince la Champions o e non va vince, via. Va via, quindi è uno show come dice Garcia, e quindi essendo uno show tutto è ammissibile. Ma tu che lavori nell'ambiente come agente FIFA, credi che Ancelotti possa tornare al Milan? Credi che abbia l'interesse a tornare al Milan? Ma non lo so se Carlo è una persona molto intelligente, non lo so in questo momento il Milan se gli può dare le potenzialità che gli può dare, che gli ha potuto dare il Real Madrid o che gli può dare il Barcellona o che gli possono dare dei grandissimi club in questo momento. Il Milan è completamente da rifare e bisogna capire se Carlo ha la voglia dal punto di vista mentale di rimettersi in gioco, perché ci vuole un allenatore che ricomincia da capo, perché deve ricostruire ed è molto più complicato ricostruire una... Io molte volte ho detto che farebbe benissimo a prendersi un anno sabbatico, ad aspettare gli eventi, cioè in questo momento il Milan è una situazione indecifrabile, quindi sarebbe un grande rischio per uno di quelli che io considero uno dei tre più forti allenatori del mondo. Anch'io sono del tuo parere, però dico questo, che ci vuole un allenatore che abbia dentro la forza mentale di portarsi avanti un discorso complicato come può essere in questo momento il Milan. Bisogna ricostruire e quindi secondo me ci vuole anche un allenatore che ha dentro di sé grandi motivazioni, un allenatore giovane, diciamo tra virgolette, non vincente come è stato Carlo in questi anni. Ciao Lio, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Ciao Leonardo Manfredonia. Io mi domando dov'è Cruciani, che avevamo convocato. Giorgio De Luca, nostro autore, non lo trova, ma lo troveremo. Avevamo un appuntamento con lui. Io leggo un messaggio, un grande pernacchione a Cruciani per il pronostico che aveva fatto ieri. Scrive un ascoltatore: Giuseppe Cruciani, dove sei? Claudio Treviso, buongiorno. Ciao, grazie di essere convocato. 800240024 e basta con sto Roma, Lazio, oggi c'è il Mortirolo, roba da tossici, scrive un ascoltatore, poi parleremo anche di Giro d'Italia e del Mortirolo, la partita di ieri era una specie di Mortirolo per la Lazio, per la Roma. E in questo momento secondo me la Lazio rischia davvero di aver buttato via tutta la sua stagione meravigliosa. Claudio, mi sentite? Sì, grazie di essere convocato. Allora, due domande le faccio direttamente a lei. Si ricorda dopo Roma, dopo Juventus Roma allo Stadium di Torino? Juventus Roma allo Stadium di Torino, eravamo ottobre, Garcia suonava il violino e diceva vinceremo lo scudetto, sì, mi e ricordo. Totti cosa ha detto? Che non si può giocare non in Italia, si può giocare in Italia, sì, non si può giocare in Italia, bisogna andare a giocare un altro campionato. Sono a 20 punti, giusto? 16-17 mi sembra. Sì, qualcosa del genere. Ecco, la domanda mia è questa. Sì. Ma perché secondo lei ieri hanno così, cioè hanno festeggiato come avessero vinto la Champions League? Ma cosa perché hanno vinto? Cosa hanno vinto? Un derby. Beh, hanno vinto un derby. Claudio, faccia bravo. Hanno vinto un derby, hanno vinto un sacco di soldi perché arriveranno secondi in campionato. Quindi mi sembra che ci fosse la materia sufficiente per festeggiare, cioè l'arrivare secondi nel campionato italiano, il qualificarsi per la Champions League dopo una stagione disgraziata come questa della Roma, secondo me vale la pena di un festeggiamento, no? Bisogna saper perdere, bisogna saper vincere. La Juve ha già vinto due trofei ed è ancora a festeggiare niente. Queste sono grandi società che sanno come muoversi. Questi ieri hanno fatto uno sfotò, secondo me, esagerato con quelle magliette. Cioè, io che poi questo aiuta anche la gente, non è convinto di questo lei, di un derby come quello di ieri, non lo so, dico io, la gente è aiutata da sua, lei conosce bene la realtà di Roma, questa è una partita, era una partita tremendamente importante. Io non credevo che la Roma potesse giocarla in questa maniera. Io credevo che la Lazio potesse rendere la vita molto più difficile alla Roma, cosa che non è successa. E secondo me hanno fatto benissimo a festeggiarla con tutti gli sfottò del caso. Ma non dimentichiamo che il secondo posto e la qualificazione diretta alla Champions League ha un grande valore economico. La Roma lo sa benissimo, ha vinto da underdog, perché ieri io davo per favorita la Lazio in questa partita, e dunque non ci vedo niente di strano, al di là di ottobre, di quella partita contro la Juventus, del violino di Garcia, eccetera eccetera. Secondo me è un grande risultato per la Roma essere arrivata seconda nel campionato italiano in una stagione tutto sommato disgraziata. Borsa, lei ha questa percezione che comandi lui nel calcio italiano? No, penso che ce l'abbia il calcio, la percezione che comandi lo dito. E lo spostamento è improponibile, nel senso che la Roma ha sempre giocato di mercoledì e poi ha fatto le sue partite la domenica, però noi ci scherziamo un pochino sopra, forse sarebbe il caso di guardare con più attenzione le cose, perché a forza di scherzare non so dove arriveremo. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta Convocati. C'è chi mi scrive un grande pernacchione a Cruciani per il pronostico che aveva fatto ieri. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzi, ciao. Fino al 70esimo era buono il pronostico, però. Settantesimo, sì. Pronostico buono fino al 70esimo, 0-0. Ero sicuro 0-0, dopo il primo tempo avrei giocato pure, ma io in questo periodo sbaglio tutti i pronostici, per cui avevo tutti i pronostici. Sei deluso, sei deluso dalla Lazio? Ah no, deluso, non sono mai deluso, sì, un po' sì, ovviamente per il modo in cui abbiamo giocato gli ultimi 20 minuti, ho visto la Lazio un po' spompata, visto la Lazio che teneva poco a centrocampo, ha dato modo alla Roma di tirarsi. Sì. Con il primo gol, poi sinceramente dopo il pareggio pensavo che saremmo tenuto, comunque che invece niente biscotto e abbiamo niente biscotto, yeah. No, e abbiamo difeso in modo assurdo sul gol di Yangambiwa. Non riesco a capire, qualcuno mi dice la stanchezza, che poi quando in queste situazioni ti porta anche a difendere male. Senti, ma sei d'accordo con me se io dico che in questo momento, con la prospettiva di giocare a Napoli, la Lazio rischia di buttare via tutto? Beh, è quello evidente, rischia di buttare via tutto, sai, tutto cosa significa? Prima o poi queste squadre qua... Tutto significa la Champions League, Lazio, che è quasi tutto. Alla Lazio è capitato di avere la Roma e Napoli le ultime due, la Roma e Napoli hanno affrontato altre squadre forti e le altre squadre meno forti nel corso del campionato, per cui il calendario è questo. Certo, la Lazio per tutti i vantaggi su Napoli, qualsiasi partita avesse dovuto giocare la Lazio sarebbe stata sicuramente in Champions League. Invece no, andiamo a Napoli con una situazione psicologica certamente sfavorevole, perché certo, il punto alla fine è solo quello, certo, non è tanto, le due squadre più o meno si equivalgono. Come, Beppe, la situazione psicologica, Beppe, come valuti, come valuti l'atteggiamento di De Rossi dopo la partita, mentre c'è Paolo che scrive vergognatevi sempre solo ad alimentare discussioni e polemiche, dovrebbero infilarvelo nel culo il biscotto? No, ma io biscotto non parlavo di biscotto, diciamo di accomodamento, abbiamo sempre parlato di situazione psicologica tra due squadre che a 20 minuti dalla fine non si vogliono più fare male, per cui non si sente, sì, scandaloso, è inutile non abbiamo mai parlato di truffa noi, è inutile che si scalda questo ascoltatore, il punto non è quello. Il gesto di De Rossi mi sembra non da De Rossi, ecco. Mm. Mi sembra un gesto non da De Rossi. Sinceramente l'atteggiamento che ha sempre avuto De Rossi nei derby tutti questi anni, sì, è stato sempre assolutamente corretto. Adesso poi lui non so come abbia spiegato in giornata questa storia del dito medio, dito medio. Perché non credo che l'abbia spiegata, certo. Insomma, ragazzi, diciamo banalità, non è un bel gesto, l'unica cosa che posso aggiungere è il fatto che mi sembra un gesto da De Rossi, ecco. Sono d'accordo con te. Mi sarei aspettato più da altri, non da De Rossi. Sono d'accordo con te. Pentirà, forse si è già pentito di averlo fatto. Non credo, non lo so. Non credo. Che sia stato, tra l'altro, non credo io non credo molto ai pentimenti postumi. Cioè... Ah, no, vabbè, postumi, che c'entra? Tu dai. Col seno di poi non ho sbagliato, potrebbe dire questo. Ma sì, vabbè, ho capito. Però devi. Conta il momento. Vorrei che tu rispondessi a Pino da Pescara. Buongiorno. Buongiorno Carlo, grazie della convocazione. Dica. Ma io volevo solamente puntualizzare quello che disse che ha detto qualche minuto fa un altro ascoltatore, cioè questa esaltazione della vittoria d'accordo con i soldi, il secondo posto in classifica, ma la mancanza di stile e di eleganza da parte di una squadra che arriva seconda, che va in Coppa dei Campioni, con un'uscita di un capitano, vice capitano, sì, di quello che ha detto, cioè che facciamo cagare, quindi voglio dire è un'autodefinizione di una squadra che arriva seconda a 16 punti della Juventus, e non è una bellissima frase, non è una bellissima immagine da dare ai ragazzi, io le parlo da un dirigente di una scuola calcio qualificata, sì, in Abruzzo, sì, non è un'immagine buona per i ragazzi. Cioè, è una squadra. Cioè, non è piaciuta De Rossi? No, non è piaciuta l'uscita di De Rossi. Sull'intervista a Sky a livello nazionale non si può parlare, sì, in quella maniera. Punto, sì, e basta. Cioè, sì, è ridicolo e basta. Non è che. Lei ha detto, cosa ha detto prima? Non credo nei pentimenti postumi. No, non ci credo. Non ci credo, anche se oggi esce a dire che. Scusatemi, certo, ho sbagliato. Risponde Cruciani. No, ma a me non mi. La frase su noi facciamo cagare non la trovo così offensiva, cioè si riferiva alla squadra, alle prestazioni della squadra, è un modo abbastanza, come dire, ha usato un linguaggio comune che usano tutti i tifosi, ma non mi sembrava particolarmente né poco educativo né altro, era la rappresentazione plastica di quello che magari di alcune prestazioni della Roma. Quello mi pare più grave forse il dito medio, francamente, delle frasi che sì, quello totalmente inopportuno, dai, Giuseppe, al di là derby, sì, quello che vuoi tu, però quello totalmente inopportuno, tenuto conto anche del fatto che anche ieri fuori dallo stadio ci sono stati scontri, sì, ci sono stati indecenze. Sono sempre restio a legare gli scontri che vengono fuori dallo stadio con i gesti dei giocatori. Secondo me i delinquenti sono commettono atti di violenza comunque in ogni caso, anche in una partita dove non succede nulla e dove i giocatori si comportano benissimo in campo con gli avversari, per cui non è quello il punto. Resta un brutto gesto, ripeto, un gesto che secondo me non è nello stile di De Rossi, che io ho sempre apprezzato come giocatore, come atteggiamenti, come tutto. Mi sembra un De Rossi diverso, forse sentiva particolarmente la partita, l'ho visto particolarmente preso rispetto ad altri derby, sì. Forse sta vivendo una situazione particolare a Roma in questo scorcio della sua carriera, però ripeto è un gesto che non mi sarei aspettato da De Rossi, qualsiasi altro giocatore della Roma non mi avrebbe sorpreso come qualsiasi altro giocatore italiano. De Rossi l'ho sempre considerato un fiero avversario, ma un avversario degno. Sì. Rispondiamo ancora a Giovanni d'Arezzo, poi ti lascio parcheggiare, fare, dire, baciare la lettera a testamento. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Dica. Mi era un discorso un po' diverso. Sembrava una conversazione un po' filo-laziale. Io sono della Fiorentina, per cui sono esterno a questo, sì, quindi? Contesto. Secondo me nell'arco del campionato due cose, vuol dire, il Napoli non ha demeritato se arriva terzo, perché che all'inizio era visto. Boh, secondo me, sì, secondo me. Però, secondo ecco, me ha fatto pratico, una pessima stagione il Napoli. Assolutamente. Però a livello pratico io pensavo questo da esterno. Ho visto sia dal punto di vista del ranking UEFA che il Napoli partirebbe comunque, se non sbaglio, come diciamo squadra ben vista sotto sì, questo punto di vista. E anche dal punto di vista del sorteggio partirebbe favorita, mentre la Lazio verrebbe messa in quarto gruppo e considerata proprio diciamo l'ultima. E anche in un futuro credo che il Napoli abbia una squadra migliore. La Lazio ha giocato una stagione molto migliore nel rapporto qualità-prezzo rispetto al Napoli, quindi questo è indubbio, al di là di del ranking UEFA che può importare fino a un certo punto. Secondo me sarebbe una sorta di falso storico se la Lazio stesse fuori da una Champions League che si è ampiamente meritata. Cruciani. Qui non è il caso, Carlo, di falsi storici o non falsi storici. Il problema è che per la partita da giocare la situazione psicologica si è completamente ribaltata. Cioè abbiamo un Napoli che ha avuto un regalo inaspettato, che non si aspettava, e ha in una partita la possibilità, non dico di rimbalzare una stagione, sono d'accordo con te che resterebbe fallimentare per molte ragioni che non stiamo a elencare, e che certamente una stagione che non verrebbe salvata dal terzo posto, però certamente l'opportunità di rientrare in Champions League attraverso il preliminare è un'occasione d'oro, è una situazione inaspettata. Certo, il Napoli deve vincere la Lazio, oggi sembra un ostacolo insormontabile per il Napoli vincere una partita importante, non è una cosa semplice. Però ripeto, la situazione psicologica si è ribaltata. C'è una cosa curiosa che voglio dirti. Dimmi. Che ho più o meno saputo nei corridoi di varie televisioni, ed è questa. Tu sai che l'anno prossimo Mediaset avrà l'esclusiva della Champions. La Champions, certo. Mentre Sky avrà l'esclusiva, se non sbaglio, dell'Europa League. Sì. Allora a Sky fanno un tifo forsennato perché per la Lazio in Champions League, cioè tutta la dirigenza di Sky, insomma quelli che si occupano di queste cose eccetera, ovviamente fanno il tifo perché la Lazio vada in Champions League, perché la Lazio ha un bacino di utenza nettamente inferiore a quello del Napoli. Certo. Al contrario, ovviamente succede in casa media, dove si augurano che in Champions League vada il Napoli. Certo. C'è anche un curioso derby, Sky Mediaset, con Sky che fa il tifo la partita domenica prossima, Sky che fa il tifo per la Lazio e Mediaset che fa il tifo per il Napoli. Poi lo chiedo a Pardo. Ciao Giuseppe. No, è così. Ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao. Traffico. Fate le due risate, li vedete tutti seri. Tutti convocati. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Tutti convocati. Fritti, Scampi e Chianti, Calamari, Lucca sei per me. Stand by for action. Dentro Toni, controllo e cross sul secondo palo, Christodoulopoulos la prende, poi Toni! Verona in vantaggio dopo 10 minuti, Luca Toni. Parte l'islandese, mette il cross, deviazione, Mesto si fa sorprendere ancora da Juanito Gomez, circondato da maglie bianche, riesce a far arrivare il pallone a Toni, gran numero, Toni in area, il pallone passa e Toni lo mette dentro, il Verona in vantaggio al settimo minuto. Sesto gol nelle ultime sei per Toni, un grande inizio del Verona, il Napoli è già sotto. C'era lo scatto di Jankovic, in mezzo c'è Toni, Jankovic controlla, chiama palla Toni, Jankovic lo va a servire e poi la conclusione di Toni ed è un grande gol al 17° minuto, 3-0, doppietta di un fantastico Luca Toni. Provare a vincere, perché sarebbe una bella soddisfazione per me, per anche per la squadra dei miei compagni, perché se ho fatto 21 gol in merito loro. Sarebbe bello, mai nessuno del Verona ci è riuscito, speriamo, vediamo un po'. Allora io vorrei parlare adesso di Luca Toni, che oggi compie gli anni 38, che è il capocannoniere del campionato italiano e che è un giocatore spaventoso. Abbiamo un appuntamento telefonico, spero riusciremo ad onorarlo con un compagno di squadra ed un amico di Toni. Magari dopo il GR che arriverà tra un minuto. Giuseppe da Palermo, buongiorno. Ciao Genta, a me dispiace intervenire adesso, io volevo concludere, volevo chiusare il discorso della Roma in Champions, sì, con una semplice battuta. Prego. Garcia e Totti in Champions, ma non è meglio forse che vanno al Foro Italico dopo a i 7-1 che, a fare che al Foro Italico? A prendere un altro 7-1, un 7-0 e via. Ciao gente. Ciao, sei laziale? Non sono né della Lazio né anche della Roma. E di che sei? Della Juventus? Della Juventus? Della Juventus? Sì, sì, della Juve, della Juve. Della Juventus. No, io direi che insomma la Roma tutto sommato, posso dirvi, questo secondo posto non lo meritava, cioè secondo me la squadra che ha fatto meglio nel giorno di ritorno, nella marcia di avvicinamento, è stata la Lazio. Però il derby di ieri, e onore al merito, è stato giocato con grande serietà, senza biscotti, senza allusioni possibili. Ebbene, il derby di ieri ha incoronato la Roma, che quindi proprio in funzione della partita di ieri a questo punto merita di arrivare seconda. Il problema è che secondo me la Lazio rischia di non arrivare da nessuna parte, perché secondo me perderà la partita di Napoli. 8-0-0-24 0-0-24. Mi piacerebbe parlare di Toni con un suo compagno di squadra dopo il traffico. Adesso ci proviamo, dopo la GR adesso ci proviamo. Ciao Micaela, l'aspetto a fine partita. C'è un presidente. Bello abitino, eh? Grazie. Se fa concorrenza ad amico, l'aspetto a fine partita. Bravo. Ci vediamo a fine così, partita. Molto... Dice che l'aspetta anche dopo la partita. Dove aspetta? Ah, se io sono sposata. No. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Arieccici. Convocati. Fritti, scampi e chianti, calamari. Allora, Pardo è arrivato a Varsavia, io credo, giusto? Sì, tutto a posto. Pier, abbiamo Bosco Jankovic. Bosco Jankovic da Verona per parlare in terza persona di un suo amico, Luca Toni. Ciao Bosco. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Pier, lasciate la prima domanda, Pardo. No, insomma, la mia domanda è... raccontacelo da vicino. So che è strana questa cosa, no? Perché è strana, stiamo intervistando, sì. Anche perché Bosco è un grande giocatore che ha avuto una stagione sfigatissima. Certo. All'interno di una stagione comunque positiva come quella del Verona, però insomma nessuno poteva prevedere questo exploit, quindi raccontacelo da vicino. Dici una cosa che nessuno sa di Luca Toni. Cosa? Non ho capito, sento male. Dici una cosa che nessuno sa di Luca Toni, Bosco. Non posso dirlo. No, sto scherzando, ma comunque si parla di un'ottima persona, di una persona veramente... Ho avuto pochi compagni come lui, come in campo, anche fuori dal campo, è proprio numero uno. Anche quello che sta facendo adesso secondo me non è un caso, perché... Si parla di un ottimo giocatore che sta molto molto bene fisicamente. E secondo me, se rimane ancora prossimo anno, speriamo che rimane, che fa ancora tanti tanti gol per Verona. Sì, ma per arrivare a quel punto lì, a quell'età lì, oggi compie 38 anni, è questione di allenamento, è questione di mentalità,

fisicamente avrà una settimana per riprendersi, e non 4-5 giorni a seconda dei desideri di Lotito. E poi è una squadra che ieri comunque ha perso veramente per una pura casualità. Io non vedo come il Napoli attuale, che peraltro probabilmente a livello mentale aveva già staccato prima di Torino, possa riuscire ad avere ragione della Lazio, anche perché il bonus fortuna mi sembra l'abbia già consumato la Roma. Se dovesse mai, e io me lo auguro per carità, andare il Napoli in Champions League, si avrebbe l'incredibile risultato che su tre contendenti non andrebbe nella massima competizione europea, l'unica che se lo meritava. Perché anche la Roma non meritava sicuramente di arrivare seconda, il Napoli non meriterebbe di arrivare terzo. Adesso secondo me il Napoli si deve affidare ai suoi campioni. Higuaín dimostrarsi di non essere solo un uomo tecnicamente molto dotato, ma anche un leader, dopo che sostanzialmente si sono perse quasi tutte le partite più importanti perché lui ha sbagliato molto, l'unico modo che ha il Napoli attuale di vincere contro la Lazio attuale è che uno dei suoi campioni faccia la differenza, come ha fatto Flick Anderson nella semifinale di ritorno per la Lazio. Altrimenti credo che al di là del momento difficile della Lazio e del comprensibile entusiasmo che abbiamo noi napoletani alla sola parola Yang Gambiwa, temo che insomma la giustizia del calcio alla fine vince. No, non vince mai. Parto, non vince mai. Ma l'abbiamo parlato anche prima. Io credo che insomma il Napoli abbia per me ha un 40% di possibilità di vincere la partita. Che non è tanto, non è la maggioranza, ma non è neanche poco. Dai, allora Pierluigi, sei a Varsavia a raccontare la finale di Europa League che nessuno si sarebbe mai aspettato. Dai, lo so. La giustizia del calcio non esiste, dai. Vabbè, però voglio dire, la giustizia del calcio non esiste, ma è questo che c'entra. Io penso che Napoli sia. Quello che ha detto Boris, secondo me, è giusto, giustissimo, nel senso che il Napoli certamente non arriva bene. La sensazione della spina attaccata ce l'ho, però so anche che il Napoli è molto diverso, per esempio tra casa e trasferta. Ha perso 6 delle ultime 8 trasferte in campionato con una vittoria e un pareggio. In casa ha avuto un andamento sicuramente più regolare, ha vinto anche delle partite più pesanti con la Fiorentina, col Milan, con lo stesso Cesena, anche senza brillare. Quindi io non la considero una cosa impossibile, anzi la considero una cosa probabile. Non credo che il Napoli sia favorito, non credo che ci sia una favorita, però io penso che la differenza per il Napoli la possono fare i campioni e l'aspetto psicologico, nel senso che comunque quando succede una cosa di questo tipo, come quella che sta succedendo alla Lazio, qualsiasi squadra inevitabilmente può avere un contraccolpo. È successo al famoso Leverkusen di Top Meller, è successo 2 anni fa al Benfica, che ha perso in 10 giorni l'Europa League, il campionato della Coppa di Portogallo. Cioè sono delle situazioni veramente molto fastidiose, perché dopo che hai lavorato per un anno, in questo caso devo dire 4 mesi, perché la vera grande svolta la Lazio l'ha fatta in questo 2015, ma hai lavorato a livelli top e sicuramente nel 2015 è la squadra migliore delle tre, la Lazio. Non sono del tutto d'accordo con Boris sui valori assoluti, perché noi chiaramente ci ricordiamo più le cose recenti rispetto a quelle passate. Perché il campionato è anche la prima parte nella quale la Roma comunque ha messo tutta una serie di vittorie che poi sono quelle che le hanno consentito di andare in Champions. Certo. Ma sicuramente, per quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, la Lazio era la squadra che meritava più di tutte conquistare questo trofeo. Paradossalmente, proprio il fatto che lo meriti così tanto può diventare l'arma a doppio taglio, perché può farti un po' di braccino del tennista nel momento più importante. Boris? Beh, a Pierluigi dico che la Lazio giocava bene pure quando perdeva inizio campionato. Secondo me la Lazio ha dimostrato in tutto il campionato di essere molto molto solida. Senti, ma fai lo sportivo, secondo te merita di più di andare in Champions League la Lazio o Napoli? No, allora la Lazio non solo merita di andare in Champions League, la Lazio meritava di arrivare seconda, quella è la follia di questo fine campionato. La Lazio meritava di arrivare seconda e se vogliamo essere proprio sportivi, se Mihajlovic non avesse già mollato e temo firmato per il Napoli, già fatto. Forse era la Sampdoria che meritava di arrivare terza o la Fiorentina, cioè sicuramente Napoli e Roma meritavano di rimanere fuori, perché secondo me non possiamo giudicare positiva la stagione della Roma, che sostanzialmente a ottobre ha smesso di giocare il calcio che conoscevamo l'anno scorso, men che mai quella del Napoli, che ha comunque fatto a livello numerico una buona stagione, perché 2 semifinali, si gioca ancora il terzo posto, una coppa. ma che, visto il livello del campionato italiano, di sicuro è andata molto sotto le aspettative. E comunque anche a livello assoluto mi è piaciuta più la Fiorentina di Montella che la Roma di Garcia. Ma la Fiorentina di Montella, squadra femmina, come ho detto molte volte, quando femminissima, no vero, vero. Quando arrivano le partite che contano le perde, cioè, non dobbiamo avere una memoria selettiva, non dobbiamo avere una memoria selettiva, secondo me. Cioè, la Roma ha perso, non sbaglio, 5 partite in tutto il campionato. La squadra che fino a gennaio era in corsa per lo scudetto, appunto, con la Juve, ci cioè, contano anche i primi 4 mesi di stagione. È evidente che è crollata, è evidente che ha fatto una serie di pareggi e che in questo 2015 non meritava di arrivare neanche in Europa League per come ha giocato la Roma, ma basti guardare i numeri. Però certo, c'è anche la prima parte della stagione. La prima parte della stagione, secondo me, la Roma comunque ha avuto dei valori tecnici nettamente superiori a tutte le altre. Per cui, senti, Piero, ma secondo te merita di più? Cioè, diciamocela chiara, di arrivare al terzo posto sportivamente parlando, la Lazio o Napoli? La Lazio tutta la vita. Il fatto la Lazio che si arrivi a giocare ma guarda, ti dico la stessa cosa che ti dicevo ieri prima di Lazio-Roma. Lazio-Roma, prima della partita, la squadra che aveva fatto comunque nettamente il miracolo sportivo della stagione era la Lazio, la squadra che comunque, anche se è finita poi con la vittoria della Roma, non ha avuto una buona stagione da Roma. Stesso discorso qui, il fatto che il Napoli sia appeso ancora a 6 giorni dalla fine a una congiunzione astrale favorevole con quella di Yang Ambiwa per poter conquistare la Champions è assurdo. Il Napoli ha avuto una stagione veramente negativa. Sì, in relazione a quelle che sono le sue qualità, sono d'accordo con te, sono totalmente d'accordo, veramente positiva. Però poi domenica può succedere pure che il Napoli vinca, soprattutto al San Paolo. Sono totalmente d'accordo, Boris. Ma se il Napoli dovesse vincere domenica, e ripeto, secondo me dice bene Pier quando dice che il Napoli non è favorito, quella è una finale vera, per quello conta i guai. No, secondo me è favorito. Secondo me è favorito in questa situazione. Guarda, dipende anche secondo me, e io questo faccio un richiamo da tifoso più da giornalista, dipende anche dall'atteggiamento che avrà il San Paolo, che ultimamente insomma. Senti, qual è la tua posizione su Higuain? La mia posizione su Higuain è che io, la mia è un po' estrema, io non lo farei giocare, nel senso che io farei giocare questa partita a quelli che poi il prossimo anno potrebbero giocare la Champions League, conquisterebbero. Quindi Mertens, Gabbiadini, Insigne, anzi. Cioè sei critico nei confronti del numero uno della tua squadra? No, secondo me ci sono dei periodi di forma. Lui a Torino è sceso, dai, a forma, quanto sembra, con un mal di schiena. Ed è sicuramente un giocatore fuori dalla squadra in questo momento. Cioè un giocatore che ha subito fortemente le due partite col Dnipro, che comunque sono sulle sue spalle, perché sono sugli suoi errori macroscopici, che non sono dai Higuain. E come spesso accade agli attaccanti, quando ci sono questi momenti c'è un calo. Ma sull'atteggiamento cosa mi dici? Perché è stato fischiato e secondo me anche abbastanza a ragione. Ma l'atteggiamento di Higuain è irritante pure quando segna 3 gol, nel senso che quell'atteggiamento di arrabbiarsi con i propri compagni mi dà molto fastidio. Io ricordo che non ho mai visto protestare Maradona con un proprio compagno, anzi, bravo. Higuain, quello è un drammatico difetto che ha, e anzi, quello che dà fastidio è che con i compagni protesta e magari poi non protesta con l'arbitro, se non per quando ha torto, in modo da farsi ammonire. Cioè, in quello non è un uomo. Se la Fiorentina è una squadra femmina, Higuain è un giocatore femmina. Però non vorrei fare l'hai già fatto. Io lo metterò in campo tutta la vita, io no, ma io anche Higuain. Pierluigi, no, però non ha torto Sollazzo, non ha torto. È vero tutto, ma io guarda, là secondo me non è nemmeno Benitez, è Aurelio De Laurentiis che deve parlare con Higuain. Se Higuain è quello delle ultime giornate che si sente già fuori dal progetto Napoli e non può giocare quella partita, se Higuain invece è in un momento in cui vuole riscattarsi, perché lui è uno di quelli che si deve riscattare, e allora Higuain, parliamoci chiaro, dei 22 che scenderebbero in campo è il più forte. Questo è evidente. Io credo che ieri sia successa una cosa clamorosa che in pochissimi potevano immaginare, e credo che questa cosa potrebbe avere un effetto psicologico sul Napoli enorme. Il Napoli contro la Juve è sceso in campo malissimo, ha fatto l'1-1, poi stava costruendo le occasioni, c'era nell'aria la sensazione sbagliatissima su questa Juve, che poi il fatto che ci fosse qualche riserva in campo poteva in qualche modo propiziare un buon risultato per il Napoli. Questa è una partita, questa è una è un appuntamento col destino. Questa è Cameron Diaz che ti chiama alle 10:50 di sera, tu sì, stai in pigiama, già stai per andare a dormire e ti dice facciamo, usciamo. E allora a questo punto devi decidere se rimani a casa perché ti fai un semolino oppure se esci. Quindi è veramente qualcosa di clamoroso. Ed è una tu lo sai che questo Napoli va a farci il semolino, cioè, già andato a fare il semolino 3-4 volte, vediamo. 3-4 volte, forse di più, pure, forse di più, gli errori tanti errori di Higuaín, forse di più, forse di più. Nei tanti errori di Higuaín che ci sono stati col Dnipro, però ci sono state anche delle clamorose parate del portiere, e comunque un attaccante che si trova 6-7 volte davanti al portiere, solo davanti al portiere, è un attaccante vivo. Probabilmente non è un attaccante lucido, non è un attaccante che in questo momento ha il cinismo dei giorni migliori. Contro la Juve l'ho visto malissimo, devo dire la verità, in quel primo tempo l'ho visto malissimo contro il Napoli, sono arrivati pure due palloni in tutto il primo tempo, quindi ma per esempio in Napoli-Dnipro, quando si è mangiato l'impossibile, io Higuaín, fossi in Benitez, lo metterei in campo, a parte il fatto che Sollazzo anche perché metterebbe direttamente Mihajlovic in panchina. Si vive o si muore con i tuoi migliori giocatori. No, però io dico due cose solo sulla partita di domenica, che c'è una cosa che mi toglie il sonno già da ieri, è che non ci sarà Brito, se non pensavo che avrei mai detto una cosa del genere, e che dovremmo scegliere uno tra Koulibaly ed Enrique, che sono due difensori che ci hanno tolto qualcosa come 7-8 punti ciascuno, quindi una cosa mi fa Brito quanti te l'ha tolti, dai ragazzi, cioè non è che ragazzi, basta stop game over, dobbiamo chiudere. Grazie a Boris Sollazzo, naturalmente. Ciao, a Pierluigi Pardo. Da Varsavia ci sentiamo domani. Io ho 10 secondi per Piero Augusto Staggi per dirmi chi vince oggi sul Mortirolo. Cioè, chi vince sul Mortirolo non te lo so dire, c'è una grandissima battaglia, questo te lo posso assicurare. Intanto Fabio Aro è all'attacco, sì, e Alberto Fondador al momento è staccato di 40 secondi. La situazione però non è un'azione nata da un'azione di Fabio Aro, ma dall'ennesimo incidente, una caduta che è stato indietro con il gruppo. Padraro è stato lesto, come si può dire in questi casi, a rimanere nella parte alta del gruppo, invece Contadora era un pochino nelle retrovie, si è creato il buco e in questo momento stanno scalando il Mortirolo e Aru, con assistito da un grandissimo Landa, sta mettendo a dura prova il campione spagnolo, che al momento controlla e all'inseguimento 40 secondi di ritardo, c'è da fare ancora più di metà del Mortirolo, poi disceso verso la Pricca. E quindi mancano 35 km all'arrivo e vediamo un po' come va a finire questa gara, che è estremamente aperta ed è sta vivendo un momento di grande emozione. C'è grande attesa qui alla Pricca, sul Mortirolo moltissimi tifosi di Fabio Aro, ma devo dire anche moltissimi tifosi di Alberto Contador. Perché la Valtellina è diciamo terreno di allenamenti del corridore spagnolo. Diciamo che oggi è il giorno che potrebbe definire la graduatoria del Giro d'Italia. Per questo stage ci sentiamo nel GR Serali, ovviamente domani mattina dopo il GR delle 7. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti. Te ne posso andare? Ci andiamo al telefono. No, faccio più, già caldo.